Ave Maria a tutti, ragazzi e ragazze carissimi, e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio, la radio che vuole portare l'Immacolata in tutti i cuori. Vi parla sempre Don Leonardo Maria Pompei e vi dà il benvenuto alla seconda puntata del ciclo di conversazioni che stiamo facendo sui 10 comandamenti. La volta scorsa, ragazzi e ragazze carissimi, abbiamo introdotto il tema, cominciando a fare una panoramica, diciamo così, introduttiva, e cercando soprattutto di andare a vedere, diciamo così, le motivazioni remote che stanno alla base dei comandamenti e soprattutto il perché Dio chiede all'uomo di obbedirgli su alcune cose. Abbiamo visto che non è che Dio abbia un qualche interesse, diciamo così, a che noi osserviamo o non osserviamo i comandamenti. Ecco, si muove fondamentalmente come un padre che ci vuole bene e che, essendo interessato al nostro bene, ci consiglia in vista del bene. Abbiamo visto i passi della Sacra Scrittura, dove Dio, fin dall'Antico Testamento, esortava a seguire ed ascoltare i suoi comandamenti. Semplicemente perché l'uomo potesse essere felice e andare quindi oltre l'apparenza di felicità che molte volte gli viene proposta dal demonio, non lo sappiamo noi, oppure dal mondo, comunque da chi è nemico della felicità dell'uomo. Ecco, un altro piccolo passaggio. Ora, sapete che i 10 comandamenti, ragazzi e ragazze carissimi, si possono dividere in due grandi blocchi. Ci sono alcuni comandamenti riguardanti Dio e alcuni comandamenti riguardanti il prossimo. Se vi ricordate, già fin dall'Antico Testamento, ma anche Gesù riprende questo discorso quando uno scriba gli chiede: Maestro, ma qual è il comandamento più importante che esiste in assoluto? E lui gli risponde: Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. E amerai il prossimo tuo come te stesso. Se ricordate il catechismo, sperando che l'abbiate fatto bene, perché oggi purtroppo, perdonatemi la parentesi un po' agroamara, molte volte a catechismo non è che si fa tanto catechismo, purtroppo, ma si impara ben poco. Comunque, nel catechismo tradizionale, questi due comandamenti, con cui è praticamente riassunta tutta la legge di Dio, sono denominati due precetti della carità. Ecco, attenzione quando sentiamo parlare di carità, che quando sentiamo parlare di carità non bisogna pensare alla caritas parrocchiale, insomma, no? Oppure alla mensa dei poveri, oppure all'obolo o all'elemosina fatta a quei poveri nostri fratelli che ci rendono qualche servizio lungo le strade. Ecco, la carità con la C maiuscola nel Nuovo Testamento indica l'amore con la A maiuscola. Ecco, vi rimando, anche se è un pochino difficile, alla prima splendida lettera enciclica del Papa attualmente regnante Benedetto XVI, che era la Deus Caritas Est, dove il Papa ha proprio spiegato la differenza che c'è tra amore egoistico o amore erotico, come si dice dal greco eros, e amore che si dona, quindi amore altruistico o amore appunto agapico, dal greco agape, che appunto in latino si traduce con caritas, no? Da cui deriva, per farci un attimo comprendere il nostro caro, quando noi diciamo a qualcuno caro, caro vuol dire ti ho nel cuore e ho te a cuore, d'accordo? Quindi mi sei caro, quindi mi prendo cura di te. Quindi è l'amore, diciamo, cristiano in senso stretto, quindi non è l'amore che prende egoisticamente, ma è l'amore che dona. Ecco, quindi fondamentalmente i 10 comandamenti rappresentano una educazione all'amore, cioè le modalità, diciamo, minime per cui ciò per cui io sono stato fatto, che è l'amore e l'amare, posso realizzarlo almeno a livello minimo. Perché state attenti, fratelli e sorelle carissimi, ragazzi e ragazze carissimi, che i 10 comandamenti non rappresentano, come dire, l'ideale assoluto. Ecco, se vi ricordate il Vangelo di 2 domeniche fa, c'era l'episodio del giovane ricco. Il giovane ricco diceva che i comandamenti li aveva già osservati tutti quanti e Gesù gli propone qualcosa di più. Quindi nella vita cristiana c'è molto di più da fare. Ecco, oltre, diciamo così, 10 comandamenti per le anime generose e per le anime che vogliono proprio puntare al massimo, ecco. Però, siccome Dio sa, nella sua infinita bontà e misericordia, che l'uomo purtroppo molte volte non si rende conto e non capisce dov'è il suo vero bene, e a volte, insomma, sembra che faccia fatica a fare ciò per cui dovrebbe provare piacere, diciamo, è stato in un certo senso costretto, tra virgolette, ad indicarci il minimo indispensabile, cioè dice: guarda, figlio mio, se vuoi rimanere, vi ricordate le parole di Gesù, nel mio amore, ecco, devi osservare queste regole minimo, quindi al di sotto della quale tu stai lontano dal cammino della vita, e quindi vuol dire tu ti stai autosuicidando, ecco, nell'anima. E anche spesso e volentieri nel corpo, perché capite, le inosservanze gravi dei 10 comandamenti comporteranno, poi come vedremo, anche spesso e volentieri la perdita della vita corporale, e ti stai autocondannando quindi all'infelicità, e ti stai mettendo, sottomettendo meglio, alla tirannia del demonio, perché vedremo nel corso di questo nostro itinerario che purtroppo non ci sono altre vie. O con Dio o contro Dio, e se si sta contro Dio automaticamente si passa dalla parte del nemico di Dio, il peccatore fin da principio, lo chiama Gesù nel Vangelo di Giovanni, l'omicida, ecco, è l'avversario, quindi il peccatore per antonomasia. Quindi al di sotto di quella soglia incorriamo nel suicidio personale, ecco. Ora, i 2 comandamenti della carità, i 2 precetti della carità, ecco, si trovano, ecco, in ordine gerarchico: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, dice Gesù, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, riprendendo il celebre testo del Deuteronomio, capitolo 6. E afferma: questo è il più grande e il primo dei comandamenti. Il secondo è simile al primo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, noi sappiamo anche che i 10 comandamenti sono posti, diciamo così, in scala gerarchica, e penso che sappiate che i primi tre riguardano Dio, il primo, il secondo e il terzo, e gli altri, il quarto, il quinto, il sesto, settimo, ottavo, nono e decimo, riguardano il prossimo. Quindi, perché questo? Ecco, sapete che quando si fa catechismo si raccomanda ai ragazzi di imparare i comandamenti in ordine gerarchico, perché se uno mi venisse a dire i comandamenti dicendo non desiderare la roba da altri, poi non rubare, poi non uccidere, poi non nominare il nome di Dio invano, non commettere atti impuri, non rubare, quindi facendo una specie di intruglio, certo saprebbe le 10 cose, però gli mancherebbe una luce di discernimento sulle cose più importanti, perché, capite, quando Dio fa qualcosa, ragazzi e ragazze carissimi, noi questo oggi ci siamo un pochino disabituati a ricordarlo, Dio fa qualcosa a ragion veduta, quindi se ha dato un ordine e una scala, vuol dire che quello è la scala. Quindi se io dicessi: qual è il comandamento più importante di tutti? È il primo, che molti non sanno neanche che significa. Se io, adesso provate, prima che ne parleremo insieme in questo ciclo di conversazioni, cosa vuol dire? Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio o altri dei, secondo delle versioni che preferite, dinanzi a me. Se uno vi dovesse chiedere a bruciapelo, un vostro amico, dimmi un po' di peccati gravi contro il primo comandamento, cosa significa? Quindi dandogli subito, immediatamente, un contenuto. Io vi assicuro, se qualcuno dei miei ascoltatori adesso sta rispondendo, gli dico subito bravo e complimenti, però vi assicuro che questa domanda fa cadere, come dire, in fallo non pochi fedeli, ecco, e dico non pochi usando chiaramente un eufemismo. Quindi, allora, la prima cosa da determinare è che i comandamenti su Dio, ragazzi, sono i comandamenti più importanti. Voi sapete che è stata recentemente fatta un'inchiesta tra i giovani dove gli si chiede: senti un po', ma tu credi in Dio? Sapete la percentuale di risposta? Io so queste cose, ragazzi, anche perché tra i vari compiti che Monsignor Vescovo mi ha affidato c'è anche quello che io faccio parte della commissione diocesana, ne sono membro, che, diciamo così, presiede, coordina gli insegnanti di religione cattolica. Quindi noi ogni anno raccogliamo, diciamo così, le adesioni all'insegnamento di religione cattolica che si registrano nelle scuole, dalle scuole che una volta si chiamavano elementari, tanto per farci capire che oggi hanno dei nomi diversi, che nessuno capisce nulla, fino alla fine del liceo o della scuola superiore, quindi dai 6 ai 18 anni. Se uno va a vedere le percentuali, che ne dica certa stampa e certa propaganda laicista che ogni tanto si inventa, adesso arriva Natale, e allora a Natale chi lo sa che succede, non si può festeggiare Natale perché siete musulmani, ma non gliene importa niente a nessuno. Diciamo, perché da un punto di vista, come dire, di cultura, diciamo così, e di adesione formalistico tradizionale, la percentuale è ancora altissima, perché siamo sopra il 90%, cioè dei ragazzi i cui genitori scelgono di aderire all'insegnamento della religione cattolica, almeno dalle nostre parti. Adesso io non so, o non ho sotto mano, non ho al corrente, sarebbe interessante vedere i dati di alcune regioni del nord Italia, che sono notoriamente un pochino più scristianizzate. Ma dalle nostre parti, insomma, che per altri aspetti il Lazio sta messo male, per altre situazioni, per esempio la mia città, purtroppo Latina, fino a qualche anno fa, ahimè, stava al secondo posto d'Italia, secondo soltanto a Milano, per consumo e spaccio di cocaina, quindi non è che siamo proprio messi benissimo sotto altri aspetti. Però la religione cattolica la seguono formalmente quasi tutti. Affianco a questo dato, avevano fatto un'intervista ai giovanotti, ai ragazzi, chiedendogli: ma tu ci credi in Dio? Sapete, la risposta è lo stesso. Quindi, conformemente col dato dell'insegnamento della religione cattolica, oltre il 90% dei ragazzi dicono che in Dio ci credono. E se tu vai a chiedergli, se tipo, va benissimo, tu credi in Dio, quindi secondo te cosa vuol dire fare una vita di fede cristiana, insomma, conforme alla religione cattolica? Sapete cosa rispondono? Significa non volere, non fare del male a nessuno, cercare la pace, aiutare i bisognosi, aiutare i poveri, non ledere i diritti del prossimo, qualcuno dice anche non rubare, essere onesti, eccetera, eccetera. Per carità, ragazzi, fare le cose che vi ho detto è necessario, d'accordo? Però queste belle cose che vi ho detto non costituiscono neanche, come dire, un terzo di quelli che sono i doveri di un cristiano, perché nelle cose che vi ho detto non è presente quasi nessun comandamento. Capite? Nelle cose che vi ho detto non è presente il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il sesto, forse gli altri, il nono, forse diciamo che su 10 nelle cose che vi ho detto ne sono presenti 4, ma come vedremo, quelli dove più e comunemente, i ragazzi possono anche essere d'accordo, che cristiani vuol dire per esempio non farsi le canne, possono anche se non lo ritengono, insomma, la fine del mondo, qualcuno è d'accordo. Capite che c'è una certa confusione, d'accordo? Cioè, nel senso che c'è un'adesione alla fede, siamo nell'anno della fede, ragazzi, tra attenti che parlare dei 10 comandamenti, che ne possa pensare qualcuno, è parlare della fede. Dici, ma come, 10 comandamenti non è la fede, è la morale, sono i comportamenti, ma attenzione bene, ecco, vi rimando alla lettera di San Giacomo Apostolo. Sapete che la lettera di San Giacomo Apostolo è molto bella, perché mi sembra che fosse nel capitolo 2, a un certo punto San Giacomo entra in polemica con alcuni che parlavano di fede, di fede, di fede, di fede, di fede. Io credo che Gesù Cristo è il figlio di Dio, io credo in Dio, io credo in Dio, io credo in Dio. A un certo punto San Giacomo dice: allora, tu credi in Dio, ma dove sono le tue opere? Cioè, la tua fede, cioè la fede in Dio, cioè, quindi se tu credi che Dio c'è e che Dio esiste, è evidente che se Dio dice di fare una cosa, la devi fare. Allora, cioè, perché se tu non fai una cosa che Dio ti dice di fare, vuol dire che non ci credi veramente. O in Dio, oppure che quella cosa te l'ha detta il Padre Eterno. O torniamo al discorso della puntata scorsa, che il Padre Eterno sia realmente un padre buono che ti guida per il bene, e anche un padre buono che come padre va obbedito e onorato. Anzi, Dio veramente va anche adorato, non soltanto onorato, come vedremo prossimamente. Allora, San Giacomo dice: fratello mio, tu mostrami la tua fede senza le opere, e io farò il contrario. Con le mie opere ti dimostrerò la mia fede. Ecco, qualche giorno fa, il 17 ottobre, abbiamo festeggiato, la Chiesa ha festeggiato nella liturgia riformata di Paolo VI, perché anticamente la data era diversa, un grandissimo santo, uno dei grandissimi padri apostolici, il secondo successore di San Pietro nella chiesa di Antiochia. Ecco, sapete che San Pietro, prima di andare a Roma, fu il primo vescovo di una grande chiesa, adesso ormai bella in letargo, in Siria, pensate un po', che era la chiesa di Antiochia, il luogo dove per la prima volta i seguaci di Gesù furono chiamati cristiani, ci ricorda San Luca negli Atti degli Apostoli, no? Allora, Sant'Ignazio di Antiochia amava dire, grandissimo vescovo, e guardate, un uomo veramente con una fede, con uno zelo straordinario, insomma, è morto sbranato vivo proprio al Colosseo, è stato certamente martirizzato all'Anfiteatro Flavio a Roma nel 107 d.C. E lui scriveva mentre stava andando, insomma, che l'avevano arrestato ad Antiochia in Siria, ha lasciato delle lettere, 7-8 lettere, come dire, ardentissime a tutte quante le chiese, diciamo, più importanti dell'epoca, quindi i filippesi, adesso ai cristiani di Smirne, ai cristiani di Filadelfia e anche ai romani, dove implorava tutti quanti: lasciatemi sbranare vivo dai leoni, perché soltanto quando sarò macinato dalle fiere sarò diventato puro frumento di Cristo. Dice: io non ho paura del demonio, anche se mi stritoleranno tutte le carni, le ossa e mi si squarteranno vivo. Usa proprio un linguaggio così. Io non ho paura, voglio essere di Gesù. Quindi era veramente era un colosso, era un gigante, un vero eroe della fede cattolica. Ora, lui amava dire, e sta scritto in una di queste sue lettere, queste parole: che è meglio essere cristiani senza dirlo che dirlo senza esserlo. Qua oggi tutti quanti cristiani, tutti quanti santi, però capite, l'osservanza dei comandamenti è ridotta al lumicino. Perché tutti quanti cristiani, però i dati, per esempio, sulla frequenza alla messa domenicale, dalle mie parti stiamo intorno al 12%. Ma questo è vero, in alcune regioni del nord Italia stiamo intorno al 5%, cioè vuol dire che 5 cristiani su 100 vanno a messa la domenica, e so pochi, sono veramente tanto, tanto pochi. Allora dice: e che ci importa? Allora ragazzi, poi lo vedremo, andare a messa la domenica è prescritto sub gravi, quindi non è una cosa sciocca, dal terzo comandamento. Quindi una persona che non va a messa la domenica non osserva il terzo comandamento, ma tra l'altro dimostra di non rendersi minimamente conto di che cosa sia la messa. Perché, come diceva il buon padre Pio, se uno sapesse che cos'è la messa e si rendesse conto di che cosa accade nella messa, non solo andrebbe a messa tutti i giorni senza bisogno di nessun comandamento, ma addirittura ci vorrebbero i carabinieri davanti alle porte delle chiese a trattenere la gente che non ci riuscirebbe a entrare, perché tutti ci andrebbero a messa. Capite? Quindi state attenti, dietro questo discorso che ci terrà per qualche tempo, non c'è semplicemente, io cercherò sempre di farlo notare, un problema, come dire, morale, di imposizione riguardante semplicemente la volontà. C'è un problema di fede, perché la fede opera, dice San Paolo, per mezzo della carità. Quindi se tu c'hai una fede morta, cioè che tu puoi anche essere un grande professore, e come dire, che sapere tutte le verità di fede, puoi fare un ottimo trattato di teologia, ma non c'è le opere, è inutile. Quella è la fede del demonio. Recentemente su Facebook mi hanno postato, grazie a Dio, attraverso un'immagine JPEG, un grande post che io me lo so subito salvato e lo faccio vedere ai miei parrocchiani quando vengono a chiedere certificati di battesimo, che dicono tutti quanti che hanno la fede. E lì c'è Padre Amort che dice: io non ho mai conosciuto un demone ateo, sono tutti super credenti, ma il problema è che non sono praticanti, d'accordo? I demoni, sapete quante volte i demoni durante gli scontri con le persone prendono in giro anche i preti, dicono: ma che ti che dice? Tu prete, dice, ma guarda che la fede la conosco meglio io di te, ed è vero. Cioè, ogni tanto scherzando, ho detto ai miei parrocchiani: guardate che se venisse Satanasso a farvi una bella predica, e lui le sa fare, ah, guardate, farebbe una predica da lasciarti a bocca aperta, una predica stupenda. Per questo che non, cioè, state attenti anche quando valutiamo le persone, non è che un prete è santo perché ha fatto una bella predica. Una bella predica potrebbe farla perché ha il dono della parola, perché è preparato, perché ha studiato, perché ha un modo di fare avvincente. Non è un fattore decisivo, d'accordo? Ci sono stati alcuni santi preti che non erano dei grandi predicatori, pensate soltanto, per dirne uno, a Padre Pio. Padre Pio Non ha fatto quasi mai in vita sua catechesi, ecco, padre Pio non ha fatto le catechesi, però di buon consiglio, però era santissimo, ecco, perché diceva tre parole in confessionale, a volte anche molto severe, ma era santo, capite? Quindi non è, perché la santità si manifesta nelle opere, quindi non facciamoci incantare, invece ci sono stati e ci sono grandi oratori, e io qualcuno le conosco, ragazzi, non vi faccio chiaramente i nomi per ragione di carità, che è un piacere starli a sentire a parlare, quindi ti incantano, ti avvincono, ti proprio entusiasmano, ma tutto sono meno che santo, scusate, e a volte dietro quel manto, diciamo così, di bellezza e di oratoria davvero avvincente, ecco, si nasconde qualcosa che non va, cioè c'è inserita dentro qualche piccola cosa che in maniera impercettibile, non proprio santissima, ti entra nel cuore e poi lì ti rimane. Quindi capite? Cioè, ci vuole ben altro per essere, come dire, fregiati del titolo della santità. La santità si manifesta attraverso le opere, non attraverso le chiacchiere. Per questo parlare dei 10 comandamenti è fondamentalmente compiere un itinerario non fondamentalmente di fede. Perdonatemi se insisto su questo punto, perché così ci mettiamo d'accordo. Perché se tu credi veramente e capisci bene alcune cose, io ritengo che poi sarai aiutato ad osservare i comandamenti. Sapete a me quante volte i fedeli sono venuti a dirmi: Don Leonardo, io questa cosa non, le sapevo, non la sapevo, non l'ho mai sentita, e so 30 anni che sto in chiesa, so 50 anni che sto in chiesa, non mi era mai stata detta da nessuno. Ecco, capite che la conoscenza è anzitutto un fatto, come dire, intellettivo. Perché certamente che i comandamenti vanno messi in pratica, e vedremo che questo richiede anche il concorso della nostra volontà e anche un po' di fatica a volte, uno sforzo ascetico, però ovviamente presuppongono una conoscenza, e la conoscenza di base è questa, che noi non possiamo dirci cristiani se non abbiamo le opere della fede, per usare un'espressione di San Paolo. La fede c'ha delle opere, che sono le opere sante. E le prime opere sante, qui siamo quelle che costituiscono la licenza elementare, sono le opere dei 10 comandamenti. Attenzione, la licenza elementare, forse, se vogliamo esagerare, forse la terza media. Ecco, d'accordo. Tutti gli uomini, sicuramente tutti i cattolici, ma per certi aspetti anche molti uomini, perché i 10 comandamenti contengono molti precetti, come spero che vedremo, di legge naturale, quindi anche i non cattolici e anche i non cristiani saranno giudicati su quelli. Costituiranno il testo di esame di tutti quando ci presenteremo dall'altra parte. Ecco. Poi chiaramente se uno ha voluto prendere la laurea, il Signore gli chiederà se ha fatto bene il lavoro da laureato, d'accordo? Capite il senso metaforico, no? Ma tutti su questo saremo interrogati. Allora, anzitutto, primo dato, dalla gerarchia dei comandamenti, noi capiamo che i comandamenti su Dio sono prioritari, quindi non basta, come tanti nostri ragazzi, dire io sono cristiano perché credo nella pace, perché credo nella solidarietà, perché credo nell'amore del prossimo, perché non faccio male a nessuno e perché non rubo, d'accordo? Ecco, queste cose sono cose anche lodevoli, ma ci sono tanti bravi e onesti uomini che le fanno come e meglio di noi, d'accordo? Uno che per esempio lavorasse a Amnesty International, per esempio, che non è organizzazione per quanto mi riguarda da raccomandare, per alcuni aspetti, però sicuramente è impegnata in alcune battaglie sociali, filantropiche, certamente alcune per noi cristiani non sono da appoggiare da un punto di vista morale, d'accordo? Quindi raccomando sempre ai miei fedeli, lo dico sempre nelle prediche, state attenti ragazzi, perché oggi si confonde l'essere una brava persona, che per carità è già qualcosa, quindi non essere un delinquente, non essere un disonesto, non essere uno che fa reati da codice penale, insomma, ancora non essere cristiani questo, capite? Andare a messa la domenica non costituisce, come dire, almeno nella nostra cultura oggi secolarizzata, un requisito per essere considerato una brava persona. Uno che va a messa la domenica è considerato una persona religiosa, non una brava persona. E in un certo senso questo è vero, d'accordo? Perché il rendere culto a Dio nella forma e nel modo che gli è dovuto è atto caratteristico di un'opzione di fede, d'accordo? E oggi più che mai, dal momento che purtroppo la nostra cultura è cristianizzata, quindi non si vive come nelle antiche società che avevano comunque delle religioni, come dire, idolatriche, pagane, oppure comunque false, un po' bislacche. Oggi purtroppo si sono fatte altre scelte assurde, quindi dell'ateismo, però ecco, quindi, capite? Quindi attenzione. Seconda verità, il decalogo è messo in ordine gerarchico, quindi non soltanto i comandamenti di Dio sono più importanti di quelli del prossimo, ma tra i comandamenti su Dio ci sono quelli più importanti e quelli meno importanti, per cui il primo è il più importante di tutti, il secondo viene al secondo posto e il terzo viene al terzo posto. D'accordo? Quindi non basta dire io non ho fatto niente di male perché non uccido e non rubo, ammesso che poi questo sia vero, come poi vedremo quando si parla di questi cinque comandamenti, perché tu può darsi che non ammazzi, se ti fai le canne tu uccidi, pecchi contro il quinto comandamento perché metti inutilmente a repentaglio la salute tua, e quindi è una forma di menomazione di un bene, il bene della salute fisica, che concorre a costituire il bene vita e che tu metti a repentaglio, quindi anche se non hai mai dato una coltellata a nessuno, d'accordo? Va bene, comunque, chiusa parentesi, poi ci arriveremo. Allora, quindi questo è il primo punto, attenzione che, chiedo un attimo ragazzi 10 secondi di rapidissima pausa, che devo fare una preghiera volante alle 17, mi date un attimo di tempo. Ok, riprendiamo. Allora, prima di cominciare i comandamenti su Dio, vediamo l'introduzione. Allora, il Decalogo comincia con questa frase: io sono il Signore Dio tuo. Punto. E poi cominciano i 10 comandamenti. Non avrai altro Dio dinanzi a te. Allora, la prima cosa da fare, quindi, prima di cominciare il nostro itinerario, è riflettere su questa premessa. Io sono il Signore tuo Dio. Perché da questa affermazione fondamentale dipende tutto il Decalogo, non soltanto i primi 3 comandamenti. Allora, io sono il Signore, non è altro che il nome di Dio. Allora, dobbiamo focalizzare il capitolo 3 del libro dell'Esodo. Ricordate l'episodio del roveto ardente? Ecco, per chi non lo conoscesse, Mosè, siamo ai tempi della schiavitù di Israele nell'Egitto, Mosè per una serie di vicissitudini, insomma, entra in contrasto, pur essendo stato per circostanze rocambolesche, diciamo, adottato dalla famiglia reale del faraone, entra in conflitto con gli egiziani e con le autorità egiziane per alcune questioni, insomma, per alcuni problemi, diciamo, successi, e è costretto a scappare per evitare di essere messo a morte. Si ritrova nel deserto Ramingo. Ecco, un bel giorno si trova appunto sul monte di Dio, quindi sul monte Horeb, e ha la visione del celebre episodio, celebre visione, scusate, del roveto ardente, quindi vede un roveto che ardeva ma non si consumava. Si avvicina, penso che conosciate questo episodio, io ve lo introduco, sento una voce che gli dice: togliti i sandali dai piedi perché il luogo in cui stai è una terra santa. E poi c'è la manifestazione di Dio: guarda, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, ho visto l'oppressione del mio popolo e ti mando a liberare Israele, mio popolo. A un certo punto Mosè gli chiede, dice: sì, ho capito, tu sei il Dio di Abramo, ma se io vado dai miei fratelli israeliti, mi dicono: ma tu vieni da parte del Signore. Dice: ma come si chiama il Signore? Ecco, e Dio risponde: io sono, attenzione, colui che sono. Quindi il nome, attenzione, di Dio rivelato a Mosè, quindi provate a rifletterci, io sono colui che sono, indica la trascendenza assoluta di Dio, attenzione, e la sua eternità. Attenti a un'altra cosa, Speriamo che riesca a spiegarvelo in termini semplici, nonché la piena coincidenza tra il suo essere e la sua essenza. Ora, ragazzi, provate un attimo a riflettere. Chi di voi potrebbe dire di se stesso: io sono colui che sono? Se fate attenzione, nessuno potrebbe dire questo qui. Semplicemente perché io che vi parlo, ho 41 anni, 50 anni fa. Non soltanto non potevo dire io sono colui che sono, ma non potevo neanche dire semplicemente io sono, perché non c'ero. Quindi voi capite che tutti gli enti creati, nessuno escluso, compresi gli angeli e compresi i demoni, non potrebbero in verità attribuire a sé questa definizione. Perché io sono colui che sono è affermazione che significa io ci sono adesso, ci sono sempre stato e ci sarò per sempre. Quindi, in altre parole, la mia essenza coincide con l'essere. Questo che Gesù ha detto di sé: io sono la vita. D'accordo? Perché Dio è colui che è, quindi è colui che è da sempre, che c'è sempre stato e sempre sarà. Allora, voi capite, provate un attimo a fermarvi, adesso non so se via radio si riesce a fare una contemplazione. È una cosa grossa questa, perché la nostra mente, se ci fate attenzione, può concepire l'infinito soltanto verso l'avanti. Non verso l'indietro, cioè se io vi dicessi: lo sai, figlio mio, che tu c'hai la tua anima che è immortale, quindi la tua vita certamente un giorno passerai per la morte, ma la tua anima sopravviverà e tu vivrai in eterno, quindi la tua vita non finirà mai. Per quanto questa possa sembrarci una prospettiva, diciamo così, abissale, infinita, in qualche modo la nostra mente riesce a rappresentarsela perché noi ne abbiamo esperienza, cioè io oggi sto vivendo il mio oggi, ma il mio oggi è la conseguenza di ieri e io ieri pensavo che presumibilmente ci sarebbe stato un domani, quindi noi l'idea del futuro indeterminato, e chi l'ha detto che non potrebbe esserci un domani del domani, un domani del domani del domani e così via, un domani del domani del domani, eccetera, eccetera? Quindi io me lo posso in qualche modo rappresentare, però provate a rappresentarvi un qualcosa che non ha un punto d'inizio. Perché Dio non c'ha la data di nascita, capite? A differenza di tutti gli enti creati. Perché la data di nascita ce l'hanno soltanto gli enti creati. Allora, i bambini del catechismo ti fanno ridere, no? Perché uno comincia a fare le domande. Dice: senti, ma secondo te 1 miliardo di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di anni fa Dio c'era? E quelli ti rispondono: sì. Scusa, 1 miliardo di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di anni fa c'era? Che rispondono di sì. A un certo punto uno gli dice: guarda, figlio mio, lo sai che se tu da adesso fino a quando muori passassi il tempo a dire ma 1 miliardo di miliardo di miliardo di miliardo di miliardo di miliardo così di anni Dio c'era, e finissi di dirlo il giorno della morte, quanti miliardi di anni avresti accumulato? Non lo si sa, insomma, però tu devi sapere che dopo tutti quei miliardi di anni Dio c'era, quindi non c'è un punto di inizio. Capite, ragazzi e ragazze carissimi, cosa? Quindi questo nome, che sembra un nome astratto, indica la sua eternità, e capite che cosa vuol dire la trascendenza di Dio? Trascendente vuol dire che è più grande di noi, cioè lui vive una dimensione che per la nostra mente è inconcepibile. Ecco perché Sant'Agostino diceva: si comprendis, ve lo dico in latino, non est Deus, cioè se tu lo comprendessi, se tu potessi comprendere il modo di essere di Dio, Dio non sarebbe Dio, perché se tu lo capisci, tu che sei un ente creato, che sei un uomo, vorrebbe dire che Dio è come te, ma se Dio è come te non è trascendente, e se Dio non è trascendente non è Dio. Capite? Ecco che significa quella parola che forse avrete sentito dire, chi di voi fa le scuole superiori, studia un po' di filosofia, se studia la filosofia scolastica vedrà che i filosofi scolastici insegnavano che in Dio l'essere e l'essenza coincidono, cioè cos'è che caratterizza? Se uno volesse dire: ma Dio chi è? È la vita, cioè è colui che è da sempre, è l'essere, quello che i filosofi greci cercavano. Vi ricordate prima Talete, l'essere si trova nell'acqua, poi Parmenide, l'essere l'assoluto, invece il non essere non è, non può essere. Pensate, i greci, con tutti questi discorsi che facevano, in qualche modo, come dire, lambivano l'Eterno, l'Altissimo, fino ad arrivare alle grandi sintesi di Platone e di Aristotele, poi preceduti, tra l'altro, dal grande Socrate. Quindi, a Allora, voi capite, questo è importantissimo, mettere questo come premessa al decalogo, perché Dio sta, è come se Dio dicesse: stai attento, figlio mio, io ti voglio bene, d'accordo, ma io ti voglio un bene da Dio, capite? Cioè, sta parlando con te qualcuno che è grande, che è immenso, che è eccelso, che è, diceva Sant'Anselmo d'Aosta, colui del quale non si può concepire nulla di più grande. Quindi pensate che dietro queste parole c'è, Mosè ci dice che i comandamenti sono stati scritti dal dito di Dio, con caratteri di fuoco. Sapete che i caratteri ebraici, che sembrano delle fiammelle, molto bello, chi di voi può studiare l'ebraico lo studi, si dice la tradizione, la leggenda forse, che sono stati mutuati, ecco, da queste fiammelle che Dio ha posato su questa roccia per imprimere i 10 comandamenti, insomma, no? Quindi attenzione, allora, questo io sono colui che sono, in ebraico è traslitterato e quindi è tradotto come col sacro tetragramma, che è composta dalla Yod, dalla Het, dalla Vav e dalla Het. In italiano si dice Yahweh, quindi io sono colui che sono, quindi colui che sono, in ebraico si dice Yahweh. Ora, ma Yahweh viene tradotto in greco col termine Kyrios, che in latino è tradotto con il termine Dominus, mentre in italiano è tradotto con il termine Signore. Ora, attenzione che il termine Dominus è un termine molto importante, quindi attenzione, io sono il Signore, tuo Dio. Sapete Dominus cosa vuol dire? Vuol dire un'espressione che usava Padre Pio tra il serio e il faceto per indicare l'Altissimo. Da Dominus deriva, per esempio, in italiano dominio, o deriva anche dominatore. Quindi chi è il Dominus? Il Dominus è colui che comanda, è il padrone, cioè colui che è al di sopra di tutto ciò che è, perché l'ha fatto lui, e che comanda, capite? Cioè comanda in maniera assoluta su tutto il creato. Quindi attenzione, dire io sono il Signore vuol dire io sono colui che è il Signore, cioè io sono l'Eterno, l'Immenso, il Trascendente, e colui che ha potere su tutto e su tutti in maniera assoluta. Quindi chi parla è Lui, l'Eterno, l'Immenso, il totalmente sopra, altro, al di sopra di noi, colui che tutto sa e tutto può, diceva il grande San Francesco. Colui che crea e mantiene nell'essere tutte le cose e tutte le governa e le domina con potere e potestà invincibili e assolute. Capito? Quindi voi pensate, cioè io ogni tanto ci penso, pensate la faccia che fa, è un'espressione, è un modo di dire, no? Ma voi pensate la faccia che fa il Padre Eterno quando uno di noi, che sarebbe un moscerino, una mosca, si mette a discutere sui 10 comandamenti. Adesso voi quando, non lo so, quando diventerete grandicelli, no? Cioè, quando si diventa grandicelli, ragazzi, no? Cioè, io adesso ho 41 anni, voi capite, no? Se dovessi andare a scuola a insegnare ai ragazzini delle scuole elementari, immaginate se un ragazzino delle scuole elementari mi si mette a parlare con me di teologia. Sarebbe roba da pazzi, no? Cioè, perché, cioè, capite, io ho una vita che sto presa a queste cose, un bambino di 5 anni, poverino, non ci capirà un granché, per carità, da un punto di vista di statura spirituale, di santità, può essere molto più santo di un teologo, questo è indubbio. Gesù dice nel Vangelo, ai bambini appartiene il regno dei cieli, però se ci mettiamo a parlare di queste cose, è ovvio che un bambino non si può mettere a parlare con me, ma voi pensate il Padre Eterno, che pazienza che deve avere, che vede le cose dalla parte sua. Quindi pensate la follia della trasgressione di un comandamento se uno si rende conto, se uno riporta ogni comandamento a questa frase: io sono il Signore tuo Dio. Adesso lo vedremo, cioè, io sono il Signore, t'attento figlio mio, Cioè, queste non sono cose che ti vengono dette da un maestro, o da un uomo come te, o da una persona autorevole, o da un leader carismatico, o da un grande uomo, supponiamo l'uomo più santo che sia mai esistito, ma neanche Padre Pio, ma neanche la Madonna. Io sono il Signore, è una cosa grossa. Attenzione, tuo Dio. Attenzione. Guardate che il Padre Eterno, dobbiamo io. Penso sempre a questa cosa. Quando il Padre Eterno parla, a differenza di noi, ve l'ho già detto, non parla a vanvera, quindi ogni parola fino alla minima è soppesata. Non bastava dire io sono il Signore, non avrai altro Dio lì fuori di me. Tuo Dio, la prima cosa, cioè che tu lo voglia o che non lo voglia, che tu ci creda o che tu non ci creda. Io sono il Signore, però dipende da te che io divenga il tuo Dio, perché tu devi riconoscermi come tale e tu devi accettarmi come tale. Prima cosa. Seconda cosa, ragazzi, attenzione, dietro questa formulazione c'è la rivelazione di una verità implicita, cioè implicita vuol dire nascosta, sottintesa. Se Dio ti dice io sono il Signore tuo Dio, ti sta dicendo che tu, se non riconosci Lui come Signore, sicuramente ci avrai qualche altro Dio. Cioè, la rivelazione è questa. Tu uomo, che lo sappia o no, che lo voglia o no, che ci creda o no, hai qualche Dio, magari con la D minuscola, in cui credi. Questo l'hanno dimostrato, ogni tanto qualcosa di buono lo dicono, anche, come dire, i cultori delle scienze umane, che sembra che oggi non esista altro nel pianeta Terra che la psicologia e la sociologia, ecco, tutte quante altre, queste altre cose. Cioè, allora, chi è il tuo Dio? Chiedetevelo voi ragazzi oggi, mentre mi state ascoltando. Sei sicuro che il tuo Dio sia Gesù Cristo o il Signore, quindi l'Altissimo o la Santissima Trinità? Siamo proprio sicuri? Ma proprio sicuri, sicuri, sicuri? Allora, Gesù, cioè, si dà subito la cosa. Se il Signore è il nostro Dio, è il nostro Dio, sicuramente noi non avremo nessun problema con i 10 comandamenti. Quindi tutte quante le cose che dirà Don Leonardo durante questi incontri saranno un ripasso di cose che io già so e che già vivo. Se mano a mano che Don Leonardo parla mi si agita qualcosa dentro, perché non è che parla, state attenti, io quando parlo in pubblico, quando parlo in diretta e quando parlo dal pulpito, non dico cose mie. Io su questo, ragazzi, non voglio sembrarvi, come dire, presuntuoso o superbo, ma quando io parlo in pubblico io sento molto la responsabilità del sacerdozio. Per cui io vi dico nient'altro, vi ripeto, nient'altro che le cose che la Chiesa insegna nel suo magistero oppure nell'insegnamento dei santi e dei dottori autorevoli. Qui vi posso dire che proprio stamattina ho avuto modo di fare un post a un mio carissimo amico su Facebook che aveva commentato, diciamo così, una omelia che io avevo postato dicendo alcune cose che probabilmente derivavano da qualche rivelazione privata, come io avevo capito, che però non sono insegnate dalla Chiesa, quindi sono dottrine un po' dubbie. Gli ho chiesto gentilmente, dico: guarda, fratello mio, ti voglio tanto bene, ho tanta stima di te, cosa che è vera. È un ragazzo, per quello che lo conosco, insomma, pieno di zelo e pieno di amore per il Signore. Dico: però sta attento, io sono un sacerdote, quindi io non posso avere nel mio profilo di Facebook un'affermazione di questo genere, perché chi la legge può pensare che io la condivida o che la valli. Dal momento che questa è dottrina dubbia, e io potrebbe anche essere così, ma la Chiesa, anche se non ha fatto una definizione, ha sempre detto il contrario di quello che tu scrivi, per favore rimuovi il post. E l'ho fatto. Quindi state attenti. Quindi, se durante le nostre conversazioni ci si agiterà qualche cosa dentro, e dirà, oppure ci verrà qualche moto di ribellione, vuol dire che, attenzione, devo mettere Dio al primo posto, cioè devo fare del Signore il mio Dio. Quindi, questo che vi ho detto e vi ripeto fino alla nausea, il problema di 10 comandamenti è il problema di fede. Perché se tu, capite, se tu credi fermissimamente che sta parlando il Signore nel senso che vi ho appena detto e che non ripeto per non sembrare pedante, e che tu, riconoscendo a Lui quello di cui abbiamo parlato, lo scegli per Dio tuo, semplicemente riconoscendo ciò che è la realtà dei fatti, perché tanto sia che tu lo riconosci come Dio, sia che tu non lo riconosci, sempre Dio rimane, capite? E il problema è che cambiano molto le cose per te se il tuo Dio non è Lui. Ma chi è il tuo Dio? Allora, le scienze umane hanno detto: guarda, vuoi capire chi è il tuo Dio? Facilissimo, tu devi pensare alla tua vita. Adesso vi dirò anche qualche vergognosa testimonianza mia autobiografica. Cioè, il tuo Dio è qualcosa o qualcuno a cui la tua persona è subordinata, cioè in funzione della quale tu compi le tue scelte, fai dei sacrifici anche grossi, per la quale sei disposti a tutto. Allora, vi faccio qualche esempio. Per un nazista, perdonatemi l'esempio brutale, chi era Dio? Ve lo dico io, Hitler e il Partito Nazionalsocialista. Voi sapete che Goebbels, anzi, non Goebbels, la moglie di Goebbels, quando per Hitler ormai la storia era finita, quindi che stavano nel bunker ormai sapevano che erano le ore contate, la moglie di Goebbels, lei lo diceva, aveva fatto 6 figli. Ma se tu gli chiedi per chi li hai fatti quei figli? Per il Führer, per il Führer e per il partito. Ah, sapete cosa ha fatto? Una madre, capite chi era il suo Dio? Ha preso una bella pasticca e gliela ha messa in gola a ciascuno dei figli, capite? E li ha ammazzati. Dopodiché ha dato una bella pistola al marito che gli ha sparato in bocca e poi si è sparato alla tempia, prima che arrivasse la fine. Allora, chi era il dio di questa signorina e del suo marito? Hitler. Per quanta gente il proprio dio è stato il partito, voi siete un po' grandicelli, io mi ricordo negli anni 70 e negli anni 80, si moriva l'estrema destra e l'estrema sinistra. A volte il dio diventa una cosa un po' meno. Per quanta gente, per quanti ragazzi il dio è un cantante rock? Voi avete mai visto gli stadi dove va in concerto Vasco Rossi? Glielo proprio scrivono: Vasco, tu sei il mio Dio. L'ho letto io gli striscioni. Ma guardate che non è un modo di dire, perché se Vasco è il tuo Dio, che farai tu? Tu farai una vita da cafone, cioè ti vesti come lui, fai le cose che fa lui, quindi vita spericolata, quindi sballi, discoteche, canne, cocaina, alcol a tutto spiano, sesso libero a tutto spiano con chi ti pare, perché tanto bisogna godere, godere, godere, cioè incarnerai questo stile di vita. È una religione, capite? Tu dici, è certo che è così. Pensate alla gente che impazzisce per la squadra di calcio. State attenti, cercate di capirmi bene, eh? Cioè ogni uomo fa delle scelte politiche e deve avere delle idee politiche a cui aderire, d'accordo? Ma non può fare del partito politico il proprio Dio, perché il partito politico è soggetto a Dio e alla sua legge, capite? Io posso avere dei gusti musicali, d'accordo? Per cui posso sentire un po' di musica, ma non è che conformo la mia vita a quello che canta il primo cantautore rocchettaro che sento, o a come si veste, o a quello che insegna, specialmente quando questo non è proprio gratificante. Capite? Cioè, io posso anche sentirmi una canzone, è discutibile, insomma, però che sia raccomandabile è un discorso, che sia peccato è un altro discorso. Cioè, io posso, se c'è una canzone pulita, ammesso che ci sia, e con un testo non proprio borderline di Vasco Rossi, me la posso anche sentire, che io ricordi qualcuna ce n'è, d'accordo? Quindi non è. Però non posso fare di Vasco Rossi il mio Dio. Io posso avere una squadra di calcio, posso vedermi in televisione una partita, posso pure andare allo stadio, se proprio, cioè, perché sono appassionato, ma non posso fare della squadra Dio, eh? Ci sono dei ragazzi che uccidono per la squadra, lo sapete questo qui, no? Quindi un ragazzo che uccide per una squadra di calcio vuol dire che proprio Dio è la squadra di calcio. Capite? E così via. E i soldi? E il sesso? Cioè, c'è qualcosa o qualcuno che condiziona. A volte è un hobby. Oppure pensate a alcune persone col gioco d'azzardo, col gioco. Oppure un hobby. Voi sapete che io vi parlo da prete, che ci sono matrimoni che vanno a zampe all'aria perché generalmente sono gli uomini. Un marito ha un hobby, d'accordo, a cui dà troppa importanza, e la moglie poi chiaramente lo affligge, gli dice: stai sempre a giocare a tennis, oppure stai sempre a giocare a pallone, oppure stai sempre ad andare a cavallo, oppure stai sempre a giocare a carte al circolo cittadino o dove pare. E quello gli dice: e tu mi stai sempre a affliggere, tu mi stai sempre a affliggere, litigano, e si sfascia il matrimonio. Semplicemente perché quell'uomo non ha avuto la misura, non è che non si può andare a giocare a tennis, capite? O non si può andare a fare un giro a un cavallo se uno ha i soldi per poterselo permettere, ma non può stare tutto il giorno lì, perché diventa troppo, diventa. E allora state attenti che, quindi, quando sentite qualcuno che dice che è un ateo, voi dovete rispondere: tu non sei ateo, tu sei un bugiardo, ditegli così da parte mia. Perché tu non è che tu, ateo significa letteralmente alfa privativo e teos, in greco significa senza Dio, non è vero che tu sei senza Dio, tu sei senza Dio con la D maiuscola, d'accordo? Cioè tu non hai scelto come Dio colui che è Dio, ma hai messo al suo posto qualcun altro con la D minuscola. Quindi può essere una delle cose che vi ho detto, può essere semplicemente il tuo io, il tuo egoismo, d'accordo? Pensate a chi mette al primo posto il lavoro, oggi è frequentissimo. C'è qualcuno: ah, padre, io sono stato un grande, non mi vede, io sono stato un grande lavoratore, io lavoro anche la domenica. E aspettano che tu gli dici: bravo, che grand'uomo, lavori anche la domenica, quindi sei veramente un grande. Se lavori anche la domenica fai male, perché la domenica, poi ne riparleremo di questa, a meno che non si tratta di un lavoro socialmente utile o necessario, non si lavora. La domenica se sta col padre eterno, se sta con la famiglia. Perché se tu metti il lavoro prima di tutto, non va bene. Capite? Vuol dire che il lavoro è tuo Dio. Quindi guardate, cioè, quindi attenzione, attenzione, non diamo per scontato che il nostro Dio sia il Dio di Abramo, il Dio di Isacco o il Dio di Giacobbe. O il Dio di Gesù Cristo, non è affatto scontato. Quindi, ragazzi, il primo passaggio da compiere, prima ancora, ed ancora non abbiamo toccato neanche un comandamento, è pensateci, vi prego, d'accordo? Io posso dire che il mio Dio è veramente Gesù. Noi sappiamo che adesso noi siamo nel Nuovo Testamento, no? Quindi io sono il Signore tuo Dio, sono parole che potrebbero tranquillamente essere messe in bocca a Gesù. Allora, vediamo se è vero. Per esempio, tu il Vangelo lo conosci bene. Fratello mio, cioè, voi sapete, ragazzi, che i primi cristiani il Vangelo lo conoscevano a memoria, tutti e quattro i Vangeli. Se venisse un amico vostro e mi dice: senti un po', ma io ho avuto un pochino di crisi di fede, adesso voglio diventare buddista, mi sto guardando un pochino in giro, ma mi spieghi, però non andare a dire la pace, la solidarietà, i poveri, eccetera, le cose trite e ritrite. Io mi ricordo, nei periodi in cui sono stato un pochino lontano, mi davano fastidio queste cose qua, perché dico: che okay, è tutto qua essere cristiani, i poveri, la pace, tutto qua. Ah, voi sapreste rispondergli? Cioè, sapresti tu dire a una persona: guarda, Gesù nel Vangelo, se ti volessi, ci dà questo insegnamento, quest'altro insegnamento, quest'altro insegnamento. Se uno potesse dire: qual è proprio la caratteristica distintiva, qual è la cosa che caratterizza più degli altri un seguace di Gesù? Quale virtù? Quale atteggiamento? Quale attitudine? Cos'è che non farebbe mai? Cioè, sapete rispondere a queste domande? Io posso dire: vi ho promesso qualche riferimento autobiografico. Allora, io dico che nella mia giovinezza c'è stato un periodo in cui il mio Dio è stata la fidanzata. Che ci posso fare? È la verità, l'ho dovuto ammettere a me stesso, nel senso che ero talmente preso che io avrei fatto qualunque cosa per la fidanzata. Purtroppo, non dimenticate queste cose qui, e questi non sono esempi da seguire. Avrei anche trasgredito non è la legge di Dio, pur di far contenta la fidanzata. Questa era una delle cartine tornasole. Mi sono a volte messo contro i miei genitori, perché magari i miei genitori volevano andare da qualche parte, specialmente l'estate, e io ho fatto il diavolo a quattro, mi si perdona l'espressione, perché non volevo andare da, perché la mia fidanzata non l'avrei vista per un mese. Allora, io penso che è necessario nella vita essere un pochino onesti. L'ho fatto. Che vogliamo fare? L'ho fatto. Non c'è stato solo questo, quindi vi ho promesso riferimento, perché ci sono state anche altre di cose. Ecco. Però il nostro Dio attuale è colui che di fatto condiziona tutte le nostre scelte, o almeno quasi tutte, e a cui siamo disposti a sacrificare ogni cosa. Ogni cosa. Ricordate cosa dice Gesù nel Vangelo? Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me. Chi ama la moglie o il marito più di me non è degno di me. Chi ama il figlio, addirittura la figlia, più di me non è degno di me. Poi vedremo mano a mano che scorriamo i comandamenti, quanti asinelli che cadranno, insomma, perché bisogna prendere sul serio alcune cose. Cosa vuol dire, per esempio, per un genitore amare Dio più del figlio o della figlia? Se è vero che il suo Dio è il Signore. Cosa vuol dire per uno sposo amare Dio più della moglie, o per una sposa amare Dio più del marito? E quando è che idolatra il marito, la moglie o un figlio? Adesso lo vedremo la prossima volta. Perché non avrai altro Dio di fronte a me, vedremo subito il primo peccato, il peccato di idolatria. Cioè, in parte l'abbiamo già accennato, mettere qualcun altro al posto che merita Dio solo. Allora ragazzi, io vi lascerei, che siamo in dirittura di arrivo, con questa considerazione. Ragazzi, chiediamoci bene e non diamo per scontato che il nostro Dio sia Gesù. Ecco, questa è la prima cosa su cui riflettere. Ricordate anche la potenza dell'espressione io sono il Signore, quindi io sono colui che sono, io sono Yahweh, io sono il Kyrios, io sono il Dominus, il padrone di tutto, e la gerarchia dei comandamenti. Io vi saluto e vi do appuntamento, se volete, alla settimana prossima, dove finalmente questa lunga introduzione sarà finita e cominceremo a entrare nel merito del primo comandamento. Vi do la mia benedizione a tutti, appuntamento la settimana prossima, Ave Maria.